Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Italia sì, Italia no. Italia sì, Italia no, Italia boom. La strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita, prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida. Anche la vita strumentalizzano, non rendendosi conto che di fronte a quelle immagini non c'è il PD contro la destra, ci sono gli umani contro le bestie. Il sangue scorrerà, infetto sì, infetto no, quintali di plasma. E mi ha fatto pena e schifo che Renzi abbia usato la foto di quel bimbo di 3 anni morto perché in fuga dalla Siria, quando lo stesso Renzi e i suoi amichetti europei di quello che sta succedendo da tempo in Siria se ne stanno strafregando. Addirittura noi abbiamo ancora le sanzioni economiche, una roba da matti. Ti devo una pinza. Se il modello è l'Ungheria di Orban, noi siamo orgogliosamente un'altra cosa. Tuono di pinze, viva il tuo tuono di panze. Presidente del Consiglio che usa un bimbo di 3 anni morto su una spiaggia per fare la sua campagna elettorale, dal mio punto di vista è un verme. Ma cuore grande così. Italia, sì, Italia no, Italia chiamme, se famo lo spaghi. Eccoci qui, se famo tu spaghi, alle 6:30 minuti, ci siamo tutti anche oggi questa mattina, 24 mattino, bestie, vermi, serpenti, vermiciattoli, verme è chi il verme lo fa. Questo è un corollario, un campionario molto breve di dichiarazioni lungimiranti dei nostri politici. Tutti dentro! Pizza in compagnia, una pizza da solo, sono totale molto pizzo, ma l'Italia non ci sta. Italia sì, Italia no. 6 e 31 minuti, ci sono tutti i vermi, vermiciattoli, i vermini, i serpenti. Esca dallo zoo, questo è l'invito di Vittorio Sgarbi oggi, sì Vittorio Sgarbi, Vittorio Feltre, oggi sul giornale, e noi ci siamo, perché ci la terra siamo, dei cacchi, la terra dei cacchi. Ovvio, Lorenzo Nespoli in redazione e il nostro Peter Bescapè in regia. E alle 6:32 minuti intanto ci sono dei graditissimi ritorni, uno addirittura ci deve raccontare se le sbarre di Mediaset si alzano ancora, uno addirittura è colui che ha fatto dare del verme da Salvini a Renzi, ha ospitato proprio il suo Mattino 5, Salvini, è il nostro Federico Novella. Eccoci, buongiorno. Eccolo Fedez. Felice di essere qua con voi. Sopra dei vetri, il nostro Fedez. Non ti preoccupare quando finirai nei cazzi. Se sei col culo a terra, sai. Come che state? Ci adeguiamo al linguaggio. Benissimo. Bene, Felice di essere con voi. Che prende posizione, Edi. Senti come l'ha detto con 2-0 singolo cantato in poi sì, è finita 2-1, è la tua stagione questa, è finita 2-1 e va bene, è finita. Sono così felice che strombazzo in tangenziale. No, ti ecco prego qua. Ti prego, abbassati tutto, puoi rifarlo. Cosa? Lo strombo. Eccomi, ho paura che c'era qualcuno con un crick, cioè. No, solo una volta. Proviamo, così gentilmente per tutti coloro, sì, che sono in tangenziale nord all'altezza di Cernusco. Benissimo, potresti fare anche uno si è un po' incazzato però sì esatto, cioè, te la guardate e dice sono le 6:33 minuti già, da queste già parti sono violenti, ecco siamo quasi a Cologno, esatto, no. Rifugiati subito in Mediaset, rifugiati, eccoci qua, sempre che si apre la sbarra naturalmente, certo, ieri si è aperta e ha ospitato Salvini che ha dato del verme, sì, era carico, era diciamo carico, che ce l'aveva qua ce l'aveva, è partita lì. Beh, sono contento che la stagione è cominciata con dei toni misurati. Esatto. Pensa che succederà tra poco. Intanto voglio salutare un altro grandissimo, eccolo qui insieme a Federico Novella, c'è il nostro Vincenzo, io ti ammazzerò. Il nostro Vincenzo. Sei troppo stupido. Il nostro Vincenzo Vincino. Ciao Vincino, dove Buongiorno. Ti trovi? Sei ancora a Zappara Mondello? No, momentaneamente sono a Roma. Momentaneamente sono a Roma, però ora ritornerò. Volevo dire, io vegetariano. Sei vegetariano? Io sono vegetariano, quindi... per cui questa storia tra bestie, vermi, lupi, cose, quella assolutamente. Insomma, io sono per una politica, diciamo, pacata. Sì, come dire, con toni francescani, fratello lupo, cioè uno che ti abbraccia. Beh, però pesce, c'è anche da dire che di querce, margherite, girasoli, la politica giusto. Cose più garofani, più le garofani. Rose, una politica di altri tempi meravigliosa. Lui più i garofani, secondo ulivi, me. Eccetera, eccetera. Forse più garofano. Forse vicino, più sì, garofani. No, la rosa radicale, quella là. Ecco. Mi sembrava. Cioè, ma Vincino, ma anche all'epoca ci si insultava così? Quando tu facevi da un bel comizio di De Mita, no, in cui in generale no. Assolutamente no. Non mai sentito dire a un Andreotti ancora, è una bestia, no? Non l'ho mai sentito dire. Neanche il busto di Andreotti, come sta il busto in marmo? Il busto di Andreotti sta bene, io ho paura che tra poco gli esce una lava, sta pure che si a piangere. Cos'è? Ho questa paura, gli esce una lacrima, tra un po'. Il miracolo del busto che piange. Guarda, aprirei subito le porte, fare entrare migliaia di fedeli qua. Ti mando la mia amica Safira Leccese. No, infatti, mandiamo subito una troupe, chiama subito. Ma ancora, guarda, ancora non so se è rugiada umidità o una lacrima vera, però quando sarà da fare un controllo vero, esatto. Controlli assolutamente mai, certo. No, farò annunci stampa. Va bene, però fallo invitando una troupe di Matteo 5, in modo che organizziamo un pellegrinaggio, cioè diventa la nuova Lourdes, capisci? Insomma, una minima di esclusiva, un minimo di riconoscenza. Anche Medjugorje, cose, mi basta una cosa più... Vabbè, diciamo, per ora non si sa se è umidità, rugiada o forse il busto di Andreotti sta emettendo una qualche lacrima. Questo, sapete che ha un busto di Andreotti in marmo nel suo terrazzo Vincino, per chi non avesse seguito le puntate precedenti. Nel giardinetto, c'è un busto, vabbè, c'è un bustone in marmo. Allora, apriamo il Parlamento? Stavo dicendo il Parlamento. Stavo montando un po' la testa, Federico. Apriamo il Parlamento. Sei la quarta camera dello Stato dopo Porta Forte ormai. Sì, la quinta. Esatto. Allora, e che dobbiamo aggiungere, Federico, sul verme, le bestie? Abbiamo detto tutto, cioè che dobbiamo... Beh, possiamo dire che la campagna elettorale politica, mi proietto un po' avanti, si giocherà sull'immigrazione a questo punto, lo sappiamo già. Beh, Pentagono, cioè, dice già, che pensiamo, ce la terremo per vent'anni. Già pensiamo alla primavera con le elezioni a Milano, nei comuni. No, io sto pensando a come fare colazione adesso. Sì, questo sì. No, arrivato adesso, la sbarra si è alzata, sono tranquillo. Su poi, questo non c'è dubbio. No, pensiamo nel senso pensano. Sì, sotto sì, perché c'è molta gente che crede che in primavera si andrà a votare, questa te la dico subito così. Ah, calda, proprio, la spariamo prima del cappuccio. Vincino, prima del cappuccio subito si va a votare in primavera, dice Novella. Beh, mi sembra una buona cosa, assolutamente. Ma come una buona cosa? No, ma no, votiamo, no, no, votiamo ogni sei mesi, non se ne può più, non se ne può più. Io sono per votare prima che abbiano finito questa storia del Senato, così. Questa storia del Senato. Senato. Sì, non... Cioè, giustamente ci sono dei... sta storia del Senato, ci sono vari commentatori. Michele Aimis, grande amico di Vincino e compagno di poker. Oggi Paolo Mieli sul Corriere, che dice ha ragione Aimis. Ma abolirlo, lo abolivano. E tutta questa... Via, bisogna abolire, come le province, abolirla, via. Infatti, sì. Come le province, sì. Esatto, facile, non... Era semplice. Apriamoci una spa. Grand Hotel Palazzo Madama. No, ma dai, era semplice, però tutto sto dibattito come cambiare il Senato, 100 senatori. Non ne posso più. I listini, non i listini, senatori votati, non votati. Poi la miseria anche della minoranza PD che cerca di trovare una cosa per dire che esiste ancora. No, perché miseria? Se ti sente Bersani. Bersani è un misero. Bersani doveva fare il premier e quell'altro e sta là a discutere listino non listino, cose miserabili sono, dai. Cose miserabili. Piccolezze. Non no, soprattutto potresti fare un sondaggio, Federico, scusa, se incontri qualcuno qui a Mediaset mentre vai nei corridoi, al bar, al cappuccio, chiedi a 10 persone, senta, che ne pensa del listino e del dibattito tra PD e minoranza PD sul Senato? E poi ci dici quanti ti guardano strabuzzando gli occhi come se, cioè, così ci fai una un'inchiestina, un sondaggino su 10 in quanti sanno dell'esistenza di questo dibattito. Ma nessuno, ma forse neanche i colleghi. Esatto. Che ormai però a me forse la cosa che adesso interessa di più è aspettare Valco Renzi sulla storia della Tasi. Questa cosa ti appassiona un po' di più? Questa appassiona gli italiani. Ma come no? Ma c'hai pure la casa. L'abbiamo abolita, l'abbiamo cosata, poi l'hanno rimessa. Stiamo sempre a rifriggere le stesse cose. Il 16 dicembre fa il funerale della Tasi. L'abbiamo già disegnato questo, ma non altre cose. Io voglio disegnare cose nuove, più cambia paese, Vincino. Cambia paese, emigra. Canton Ticino. Vai in Svizzera. Lì puoi disegnare paesaggi al massimo. Esatto. Per disegnare una flat tax. Guarda, non ho nulla per cosa. Però oggi Vincino, oggi 20%. Che bello. Tu immagini come saresti felice, Alessandro, con una tassa al 20%. Sei un po' salviniano, guarda, lo sai. Assolutamente no, guarda. Ma guarda che la Lega vuole la flat tax. Ho capito, ma non è che io sono per il salario ai disoccupati, sono per la flat tax. Allora sei un po' del Movimento 5 Stelle. Capito, sono tutte cose proposte vecchie da tanti anni, cioè avere una certa età, anche un po' di memoria. Per esempio il salario l'hanno proposto Potere Operaio. Sì, cioè il salario disoccupato. Posto potere operaio. Cioè eri tu in prima fila urlando così. No, io ero di lotta continua, assolutamente. Era dell'ala moderata. Di lotta continua, assolutamente. Non era potop. Comunque, cosa disegna oggi Vincino? Disegna il famoso discorso francescano di Renzi, appunto, che piglia a calci e pugni il lupo, noi umani, voi bestie. I calci al fratello lupo. Sì, io l'avevo detto il primo giorno. Spero che non si vada su questa china. E invece, Federico, tu che hai iniziato da 2 giorni, debosciato che non sei altro, hai già notato che la china buonista, dici? No, sì, la china di insulti, la china dei... La china di insulti, sì. Io quello che vedo è che spesso si dividono le persone in buoni e cattivi. Invece, secondo me, questa divisione non c'è. Per esempio, la Merkel. Adesso la Merkel è diventata Santa Merkel, perché ha detto apriamo le porte della Germania ai siriani. E diamo 6 miliardi, e investiamo 6 miliardi. E diamo 6 miliardi, ho capito, ma... Meraviglioso. Sì, meravigliosa, di che però? Cioè, lei si prende gli immigrati, diciamo così, di serie A, ora non per fare classifiche, però non sono tutti uguali gli immigrati, no, ci sono i siriani che comunque sono più integrabili e gli altri che ci riprenderemo noi. Sì. Allora la Merkel non è buona, è una vecchia volpona. Ho detto volpona, volpona, una vecchia volpona. Bravo. Perché non è che fa solidarietà, fa politica come tutti gli altri. Ma certo che fa politica, sì, però fa politica con coraggio. Madonna mia, ha avuto un coraggio enorme. In una settimana la politica europea è cambiata completamente. Su questo sono d'accordo con Vincino. Bisognava iniziare con i siriani hanno una guerra terribile, che noi siamo stati da 4 anni e 5 anni a guardare questa guerra, non ce ne frega niente. E perché secondo te improvvisamente ha cambiato idea? Perché bussa alla porta, perché bussa alla storia, anche se tu ti chiudi, poi irrompe da ogni, viene di fronte a te. Ho capito, quindi per te Vincino ha avuto una visione politica, non è un calcolo politico, un cuore politico, un grande cuore, ha avuto una capacità di capire pensa coi tedeschi in Germania, una cosa. Ma lui Federico è un po' anziano, Vincino. Noi siamo giovani, siamo scettici, siamo cinici, siamo cattivi, abbiamo il retropensiero. Invece lui, vedi, ha questo romanticismo della politica che fa, che agisce, che interviene. Ma se possiamo dire una cosa, che qualcuno, dopo certe foto che sono state pubblicate, foto terribili, non è che si è commosso, ha detto adesso la mia opinione pubblica, cioè quelli che votano si sono impressionati, gli devo andare incontro, ma questa è politica. Questa non è commozione, è la Merkel che improvvisamente c'ha l'illuminazione e viene fulminata. È visione politica. Questa è grande politica. È Kohl che capisce a un certo punto che bisogna che pagare tutti i prezzi possibili, ma bisogna unificare. Ma pensate che anche Joschka Fischer. Fischer, che è dell'SPD, insomma, poi cos'è? Che era di lotta continua. Joschka Fischer. Tutti da lotta continua sono passati. Fischer, l'amico di Sofri, l'ho conosciuto. Comunque Joschka Fischer, ex ministro degli esteri tedesco, oggi fa un'intervista al Corriere della Sera e dice plaude alla Merkel, dice devo dirlo, è stata brava, cioè ha dimostrato ancora una volta che la Germania, nonostante tutto quello che si dica, è il paese dell'integrazione, dell'inclusione. Questo è il parere. Comunque adesso Santa Merkel, tutti Santa Merkel. Vedremo. Vincino, la differenza tra lei e Hollande. Sì. Hollande, questo doveva fare quando c'è stato il problema alla Riviera, là a Ventimiglia. Questo doveva fare, assolutamente. Ah, sì, quando ha chiuso. E noi dovevamo prendere le macchie e andare e portare. Vabbè, ma senti, ma togli il busto di Andreotti e fatti fare un busto della Merkel in marmo. No, l'aggiungo. Poi magari tra loro si fidanzano, marmo su marmo. L'aggiungo. Che bella coppia, direi. Che bella coppia. Il fidanzamento siamo tra busti. Siamo cristiani tutti e due, assolutamente. Fai accoppiare i busti in giardino. Cioè esatto, una roba. Sì. E che nasce da un accoppiamento di busti in mano? Un minotauro, non lo so. Che nasce? Cosa nasce? Insomma, invece praticamente hai visto nella Merkel la stessa visione politica di un Alfano che gestisce. Quello è un deficiente cronico totale. Assolutamente. Il piccolo politico siciliano proprio. Scusate, ministro Alfano, il buon Vincino è entrato un po' nel clima dei primi talk show. È quello come dice Marino che ci ha portato alle mano tutti i disagi. Sta facendo satira. Marino l'hai chiesto. Vabbè, te lo faccio sentire dopo il traffico, però. Adesso l'hai chiesto, adesso lo senti, ma dopo il traffico. Alessandro Milan, solo traffico e distintivo. Traffico e distintivo. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com vi presenta. Dottor Milan, Renzi afferma che loro sono gli umani e gli altri sono le bestie. Si è visto come è stato umano con i pensionati, che non gli ha restituito ciò che gli spettava per legge. Buongiorno Alessandro, siamo appena rientrati da un periodo di vacanze e siamo felicissimi di averla ritrovata. Ma senta, possiamo chiederle una piccola cosa? Non ci chiami più debosciati, ovvero viziosi, dissoluti, infrolliti, poiché ci alziamo alle 7 la mattina e fino alle 11 siamo in movimento. Ma signor Novella, quando la mattina si alza dal letto per andare in bagno, cosa fa? Di aspettare che gli alzi la sbarra davanti alla porta? È una domanda che il nostro Federico sì. Novella, conduttore no, di Mattino 5. No, perché per il bagno ho il Telepass. Ah, ecco, perfetto. Sì, si apre in automatico. Sembra... perché a volte ci sono delle emergenze, quindi non è che puoi aspettare che si alza. No? Comunque sei arrivato lì, è tutto a posto? Tutto a posto, devo dire tutto al suo posto. La trasmissione di oggi, cosa c'hai? Chi c'è? C'ho la Sant'Anchè. Perché adesso sfumiamo un po' i toni oggi dopo, sì. Dopo capito Vincino, dobbiamo un po' giustamente sì, bisogna un attimino toni più felpati sì, toni più felpati, toni più felpati e poi cos'altro? Sì, poi vado in quei comuni che praticamente hanno approfittato di quella legge sì. Che ti consente di far pagare le tasse ai cittadini lavorando. Ma come no, come no? Abbiamo avuto anche noi il sindaco di Invorio, vai a Invorio. Noi andiamo vicino Lucca in Toscana. Vicino Lucca. È un'idea che sembra funzioni, almeno certo. Sulle piccole. Cioè non hai soldi per pagare le tasse, lavori un po' per il comune. Tu sì. Vicino lo faresti, zappare un po' Mondello lì. Ma io qua guarda, non c'ho problema assolutamente. È un riccone, lui le tasse le paga. No, ma senti, no, quello è un disastro immane. No, non c'ho problema a zappare, a fare a livellare la sabbia, assolutamente. E lui è stato in lotta continua. Poi fatto... però a una certa età mi metterebbero. E mica ti mettiamo alle 2 del pomeriggio, dai, ti mettiamo alle 11 del mattino. Comunque volevi Marino, giusto? Allora, sì, volevi Marino. Sentite qui Marino. Marino fa finta di nulla. Marino. È stato fatto moltissimo, abbiamo pulito la casa dal sindaco precedente Gianni Alemanno, che adesso è indagato per associazione mafiosa e che tra l'altro era il candidato sindaco del partito di cui Angelino Affano era il segretario. Ecco, ha sistemato un po' tutti. Abbiamo pulito la casa da Alemanno, così miserabile, diciamo, un'operazione di nettezza urbana praticamente. Esatto, cioè... c'è arrivato il cassonetto via. Ma la è, l'ha messo nell'umido o nel secco? Non lo so, è tornato. Secondo me Marino da questa prima dichiarazione mi sa che ci regalerà un gran bel autunno. Vincino, secondo me ci regalerà un bel autunno. Estate peraltro, sarà difficile replicare le performance dell'estate. Beh, vabbè, però se l'è tenuta qui tra un caricamento di bombole e l'altra, tra uno snorkeling e l'altro, tra un immersione e l'altra, abbiamo pulito. Che poi ieri ha inaugurato una buca, Ieri è andato là da una buca perché hanno iniziato dei lavori per smantellare la gente che paga il biglietto per visitare la buca tipo paga appunto, ma c'è una mostra No, ma è vicino alla stazione stanno asfaltando una strada ma c'era anche il prete a benedire la buca, esatto, c'era Marino. È una cosa, guarda, pazzesca. Roma è piena di buche e non arrivi nei soliti vandali a riempire la buca. Però noi alle 9:05, perché andiamo avanti fino alle 9:30 per fare un po' di concorrenza a Novella questo mese di settembre, perché ci sono altre in ferie e noi lavoriamo. Allora, che facciamo? Parleremo di quello che stanno studiando a Roma. Questo nessuno lo sa, pochi lo sanno. È un regolamento. Avremo la funzionaria vicequestore del comune che sta studiando questo regolamento. Multe fino credo a 150 euro per chi butta i mozziconi di sigaretta a Roma alle cicche, caro Vincino. Sei già, guarda, sarà giorni, farà polemica, la stanno mettendo a punto, poi la giunta l'approverà, ma c'è già un sì di massima. Ci vogliono i vigili, non esistono vigili nel resto di Roma, eccetto che nella piazza quella del centro di fronte al grande monumento. Non ci sono vigili a Roma, non è in tutte le strade, stanno tutti dentro. Non ci stanno vigili, mica è sempre Capodanno. A Roma è sempre Capodanno per i vigili, assolutamente. Si fanno le quante l'un l'altro dentro l'ufficio. Guarda, adesso lo devo vedere, ma credo fino a 500 euro o 150, ma adesso non ce l'ho sotto mano. Tu puoi lanciare petali di rosa durante un funerale, sì, no? Sì. Però non puoi gettare i mozziconi di sigaretta. I petali di rosa sono meravigliosi. Nella storia romana, i petali di rosa, Nerone, prima di ammazzare le persone, li invitava a banchetto e poi buttava petali di rose. Sì, vabbè, quindi, però. Quindi, hai esultato anche non per abbiamo parlato dei 5 Stelle, però. Cosa vuoi dire? Manca un minuto. Hai un'idea compiuta, formulata, fatta. Questa cosa ai 5 Stelle che abbracciano Orban, no, è, cosa, è una cosa, guarda, proprio là si vede tutta la piccola borghesia di Grillo, tutto il suo essere proprio minimo praticamente. Ma in che cosa? In che cosa? Hanno abbracciato Orban nel suo blog. Ah, perché hanno abbracciato Orban? Quell'altro, no, se c'è un politico insopportabile in Europa è Orban. Senti, no? Io oggi avrò ospite tra gli altri l'ambasciatore ungherese in Italia, glielo devo dire questa cosa. Certo che lo devi dire, assolutamente. Non è che... Quindi lì si vede la piccolezza di Grillo nell'appoggiare Orban. Sì, la mancanza totale di visione politica. Totale. Di qualsiasi totale. Vabbè, vi rilascio. Vabbè. Allora, nel salutarvi con il nuovo Brunetta, anche lui Brunetta, lui ci ha sempre regalato. Federico, l'hai sentito ieri novella quando era a Cernobbio? Che gli hanno chiesto? Sì, mi pare di averlo sentito, ma lo riascolto volentieri. Che l'hanno chiesto di Renzi, senta. Renzi si è istituzionalizzato. Chi? Renzi. Chi? Chi? L'anno scorso è andato a inaugurare una fabbrica di bambini. Non lo conosco. Non lo conosco. Una grande pagina di umorismo. Ma invita commedia. Brunetta un giorno, che con Brunetta secondo me altro che vermi, bestie, ne usciranno delle belle. Sicuramente verrà. Vi devo salutare, Federico Novella. Ciao. Alle 9 mattino 5, il grande Vincino. Ciao. Alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori, amici miei, un'ascoltatrice ancora prima in segreteria telefonica mi rimprovera perché vi chiamo debosciati miei, ma è affettuoso, lo so che debosciati vuol dire viziosi, vabbè, mi hanno detto, ma non ci chiami debosciati che io mi sveglio tutte le mattine alle 7, ecco appunto, noi alle 5, quindi debosciati, ma in maniera amorevole te Milan brutto debosciato, ecco va bene anche ciò che do ricevo, ciò che do ottengo. Bene, allora 7:19 minuti, siamo pronti a leggere i giornali e oggi di che parleremo? Parleremo dell'immigrazione, avremo ospite Giuliano Ferrara, avremo ospite l'ambasciatore ungherese in Italia che ieri era impegnato in una riunione, sarà con noi questa mattina, ma parleremo anche di altre iniziative come per esempio, attenzione, a Roma, cari ascoltatori, sul Messaggero c'è scritto in prima pagina, tra poco lo vedremo, a Roma stanno mettendo a punto un regolamento, come c'è in molte città italiane e mondiali, per dare le multe a chi butta i mozziconi di sigaretta per terra, le cicche. Attenzione, avremo ospite il vice capo gabinetto del sindaco che sta mettendo a punto tutto questo nuovo regolamento. Multe in vista. I giornali. Allora, è martedì 8 settembre e siamo qui, è il compleanno di mio figlio Mattia, evviva! 7 anni. Oh, finita la pagina di Libro Cuore. Auguri, piccolino. Allora, il Sole 24 Ore apre con che cosa? Mini ritocco al PIL della Cina, riserve ridotte di 93 miliardi. Questo è lo sguardo su Pechino e quello che sta succedendo. Ovviamente, invece, la questione immigrazione è ancora il titolo per tanti altri quotidiani. Per il Corriere della Sera, piano profughi, quote e multe, questo è il titolo di prima pagina. Per La Stampa, i raid in Siria dividono Francia e Italia. Anche il Manifesto ha francotiratore, la foto di François Hollande, presidente francese, in prima pagina. Francotiratore, la critica ovviamente per la decisione di colpire in Siria. Per Repubblica, profughi in 40.000 lasceranno l'Italia, Renzi no raid in Siria. Il giornale, l'ONU chiede ai ricchi italiani di mantenere gli immigrati. Questo è il titolo di prima pagina, mentre Avvenire ovviamente mette in primo piano, non uscendo il lunedì, mette in primo piano il martedì le parole del Papa. Gli accoglienti, si consolida la svolta dell'atteggiamento europeo e la CEI, dopo che il Papa ha parlato, dice con Francesco per un Vangelo vissuto. Italiani brave bestie, questo invece è il titolo di Libero, facendo il verso alle parole del Presidente del Consiglio Renzi. Questi sono alcuni dei titoli, ne vedremo altri, ma voglio subito partire appunto con quello che sta succedendo a Roma, come ho detto, quello che succederà a breve, noi ne parleremo dalle 9.05. Succede che c'è la guerra alle cicche, ai mozziconi per terra. Paolo Graldi, in prima pagina del Messaggero. Il vento del giubileo alle porte riaccende ambizioni di convivenza civile abbandonate o mai considerate. Fra tutte spicca il divieto di gettare via i mozziconi delle sigarette. Un fardello maleodorante di 11 milioni di cicche al giorno, 4 miliardi l'anno. Questo è il costo. Il viziaccio è inveterato tra noi, tappeti di mozziconi, davvero ovunque, testimoniano di un vilipendio continuo, inescusabile, verso la città che dovrebbe umiliarci, offenderci, ma che per lo più ci trova rassegnati all'indifferenza. Il colpo di frusta del Campidoglio, che si tradurrà in una delibera, va incoraggiato e apprezzato, scrive il Messaggero, anche perché quando sarà in vigore avremo solo colmato una lacuna che ci vede tra gli ultimi. Sono previste sanzioni da definire. In Europa i trasgressori sono multati da 35 euro fino a 1000 euro. In qualche città si aggiunge il pubblico ludibrio per i maleducati, assaliti dalle rampogne di cittadini gelosi custodi del decoro urbano. Ecco il decoro. La guerra alle cicche deve aggiungersi alla più generale campagna per il decoro urbano mai tanto maltrattato come in quest'anno. Così basta accattonaggio, lavavetri molesti, picnic sulle scalinate, bagni nelle fontane, via insultando i luoghi pubblici. Ma si sa, le buone intenzioni vanno accompagnate da una massiccia dose di quello spauracchio che si chiama deterrenza, cioè vigilanza e sorveglianza. Se l'amore per la città non ce lo ritroviamo come naturale dotazione, allora va imposto con metodica e inflessibile severità, altrimenti finirà tutto, come molto del resto, purtroppo, nell'immenso paniere delle buone intenzioni tradite e rimaste tali. Auguri di tutto cuore. Questo Paolo Graldi in prima pagina del Messaggero, che dunque saluta con soddisfazione queste multe che arriveranno. Vietato buttare i mozziconi per le strade di Roma. Oh, c'è da dire che invece, sempre rimanendo sul Messaggero, mi ha molto colpito in termini di sicurezza un episodio che è avvenuto ieri a Fiumicino e di cui dà ampio risalto appunto il Messaggero a pagina 11. È successo questo. Fiumicino sale sull'aereo senza biglietto. Ma è incredibile. Cioè ha passato tutti i controlli. Era un cittadino che voleva tornare in Belgio e non aveva i soldi. Lo hanno beccato alla fine, lo hanno pizzicato semplicemente perché è seduto comodamente sull'aereo, era seduto sul posto di un altro che aveva il biglietto regolarmente. Quindi sapete cosa succede, arriva l'assistente di volo, mi scusi, due persone, mi faccia vedere il suo biglietto, e questo il biglietto non ce l'aveva, eppure è riuscito ad aggirare tutti i controlli, perfino quello dell'aereo, alla fine sulla porta dell'aereo quando uno deve mostrare la carta d'imbarco, e si è seduto a un posto. Un belga supera tutti i controlli, si siede a bordo di un volo per Bruxelles. Cristiana Mangani e Sara Menafra raccontano questa cronaca anche allarmante alla pagina 11 del Messaggero. Sì, è vero, la giornata era da bollino nero, decine, forse centinaia di migliaia di passeggeri in transito, ma sta di fatto che due giorni fa il signor Thomas, chiamiamolo così, 40 anni, belga, ha attraversato Fiumicino da parte a parte fino a trovarsi sull'aereo low cost in partenza da Roma a Bruxelles, senza il biglietto per quel volo. Ed accorgersi di tutto è stato il passeggero che aveva in mano la carta d'imbarco con il posto in cui stava seduto questo signor Thomas. La notizia, rimasta sotto silenzio, anche se sono stati disposti tutti gli accertamenti del caso, e chi ha assistito alla scena spiega che non c'è nulla da temere. Thomas sembra un pazzerello assolutamente inoffensivo che neppure si è reso ben conto di quel che accadeva. Il problema però è chiaramente, scrive il messaggero, una questione di sicurezza ben più seria, che riguarda una persona che può aver fatto un qualcosa così di strampalato. Invece, siccome si parla molto di tasse, si parla di tasse con il presidente Renzi, che ancora ieri a Porta a Porta ha spiegato come taglieremo le tasse, bisogna fare un atto di fede e vedere che succederà. Vi segnalo due articoli a proposito. Il primo è di Ferruccio Sansa sul Fatto Quotidiano. A corollario, a chiusura della festa che c'è stata nel Fatto Quotidiano, è intervenuta la presidente dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi. Il titolo del Fatto Quotidiano è questo: i 682 miliardi che Equitalia non si fa restituire. È il tesoro perduto dallo Stato che continua a crescere. Che cosa sono questi 682 miliardi? Sono soldi che lo Stato dovrebbe avere da presunti evasori, i quali però fanno ricorso e quindi si perde tutto in litigiosità. Nel 2014, racconta il Fatto, sono stati presentati 90.000 ricorsi contro gli accertamenti delle agenzie delle entrate, meno dei 171.000 ricorsi del 2011. Ma sono tanti i contribuenti che alla fine riescono a non pagare. Le somme dovute confluiscono nel mare e nell'oceano dei crediti che Equitalia deve riscuotere. Appena due anni fa ammontavano a 545 miliardi, ora sono saliti a 682 miliardi. Soldi che l'Agenzia delle Entrate molto probabilmente in gran parte o in parte non riuscirà più ad avere dai presunti evasori o evasori che oppongono e fanno opposizione e fanno ricorso. E quindi, al di là della lotta all'evasione fiscale, lotta agli evasori, ci sono questi soldi che l'Agenzia delle Entrate magari dovrebbe anche ricevere, ma che alla fine per contenziosi non prenderà mai. 682 miliardi di euro. È una cifra non indifferente, una cifra mica male. La vicenda Equitalia mi porta all'articolo che vince oggi il premio Mani sul volante, quello che ci fa più incazzare di questa giornata. E vi ricordo sempre, se fate colazione appoggiate oggetti contundenti e qualsiasi cosa di bollente che avete in mano in questo momento, perché dobbiamo leggere l'articolo di Libero a pagina 13, querelato da Equitalia per un video di critica. Succede a un disoccupato, il signor Mauro Merlino, 40 anni, che ha postato su YouTube un video col seguente messaggio: Equitalia istiga al suicidio. Questo disoccupato di Sassuolo è stato denunciato dall'ex numero uno di Equitalia, Attilio Befera, querelato per diffamazione. Ora se la vedrà con un processo. Ex dipendente di un'azienda che ha delocalizzato, trovatosi senza lavoro, scopre la piazza virtuale dei social, posta commenti e diventa un eroe di battaglie combattute da tanti nella vergogna. Parla di piccole attività, imprenditori che non ce la fanno più. E però a far andare Befera su tutte le furie un breve video di 40 secondi nel quale si parla di suicidi degli imprenditori e questa persona dice in pratica Equitalia istiga al suicidio. Querelato! Ora risponderà per diffamazione. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che... Alessandro Milan al pota pota dell'informazione. Evviva, evviva, allora mandateci le vostre sigle nei vari dialetti. 0246524492 è la nostra segreteria telefonica. Allora vogliamo tornare sulla questione immigrazione. Sono state definite le quote europee. Per la verità verrà presentato questo complicatissimo piano, come lo definisce il Corriere della Sera, domani in sede europea. Luigi Offeddu a pagina 2 spiega: profughi, ecco le quote europee. A ogni paese la sua quota di migranti, in teoria obbligatoria, ma se un governo la giudicherà eccessiva pagherà pegno, cioè una multa. Ovvero, rovesciando il concetto, potrà comprarsi lo sconto, e cioè rifiutare per un anno i profughi indesiderati versando qualche milione di euro alle casse di Bruxelles. È fatta anche di queste sottigliezze la proposta tremendamente complessa che la Commissione europea presenterà domani all'Europarlamento. In tutto, tra quelli già accolti nei mesi scorsi, verranno redistribuiti in due anni circa 160.000 migranti, il triplo di quelli presi in considerazione a luglio, ma forse un ventesimo rispetto a quelli che potrebbero ancora arrivare, 4 milioni solo i siriani attesi secondo le stime dell'ONU. La Francia, che passerà dai 24.000 a 31.000 arrivi, e la Germania, oltre 40.000, dovrebbero accogliere insieme con la Spagna il 60% di coloro che inseguono pace e benessere. Italia, Grecia e Ungheria sono i tre paesi di prima linea che finora hanno sostenuto gran parte dello sforzo e vedranno alleggerirsi sensibilmente il carico. Questo è ciò che domani verrà presentato all'Europarlamento, poi ci saranno le diplomazie, chi sarà d'accordo, chi no, e si vedrà se questo accordo verrà implementato. Questo è il piano europeo. Intanto Angela Merkel sicuramente si erge in questi giorni come il politico con una visione politica più chiara su questo tema, perché ieri ha ringraziato i tedeschi che hanno offerto l'immagine del paese che ci rende orgogliosi, ha detto ci vuole uno sforzo collettivo, ci sarà bisogno a lungo di un impegno volontario, ha stanziato 6 miliardi di euro per i profughi e ha invitato l'Europa a dire ora serve uno sforzo di tutti. Questi sono, come racconta Tonia Mastrobuoni a pagina 4 della stampa, i perni dell'intervento di Angela Merkel, e tutta la stampa italiana, sempre pronta spesso anche a criticare la cancelliera tedesca, ora pronta a elogiarla. C'è un'intervista sul Corriere della Sera di Paolo Valentino all'ex ministro degli esteri tedesco Joschka Fischer, che non è certamente dello stesso partito politico di Angela Merkel, e che dice sono orgoglioso del mio paese e rendo onore al coraggio di Angela, orgoglioso di quello che Angela Merkel ha fatto sui rifugiati, una decisione giusta. Così si chiude per sempre il dibattito se la Germania sia o meno terra di immigrazione e di asilo. La risposta è sì. Così Joschka Fischer sul Corriere della Sera. Ma anche Massimo Gramellini dedica il buongiorno sulla prima pagina della stampa alla cancelliera tedesca, parola di Angela. Tra le lezioni impartiteci dalla vicenda profughi c'è che la politica esiste ancora, scrive Gramellini. È bastato che in Germania un politico dicesse li prendiamo noi perché il paese tutto, da semplici cittadini ad apparati statali, si mettesse in moto con slancio e raziocinio. Angela Merkel non è un politico qualsiasi, da sempre la Germania sa essere una macchina da guerra anche quando lavora per la pace, però la reazione di una comunità intera alle affermazioni della cancelliera trascende la sua personalità e rivela che la classe dirigente tedesca nel suo complesso a non avere perso la propria autorevolezza. Io sapete che come provocazione, ma neanche tanto, da luglio ho lanciato questo slogan chiavi alla Merkel, cioè affidiamo le chiavi dell'Italia alla Merkel, ovviamente con tutti gli insulti e gli improperi del caso che sono disposto a ricevere, ma vedo che questo partito continua a mietere nuovi, lenti progressi. Siamo già al 3% come sondaggi, chiavi alla Merkel, 3% ci danno gli ultimi sondaggi. Merkel, dai compiti a casa all'asilo per tutti. Anche Giampiero Gramaglia fa un ritratto sul Fatto Quotidiano a pagina 6 sul nuovo ruolo di Angela Merkel, considerata adesso da tutti come la leader europea che ha avuto una visione politica al momento delle decisioni. Dall'altra parte invece c'è François Hollande, presidente francese, definito franco tiratore dalla prima pagina del Manifesto, colui che insomma annuncia già da oggi siamo pronti a raid aerei in Siria contro l'ISIS. L'Italia si sfila, Renzi ieri a porta ha detto non aderiamo a queste iniziative spot, semmai ci deve essere una coalizione internazionale ben definita, ma noi, dice Hollande, invece siamo pronti alle missioni in Siria. Oggi i primi sorvoli, no però alle operazioni di terra, e Assad deve lasciare. Queste le condizioni francesi. Si arrabbia invece moltissimo se la si definisce una boutade, Naguib Sawiris. Chi è Naguib Sawiris? Beh, è uno degli uomini egiziani più più influenti dal punto di vista imprenditoriale, e che ha lanciato su Twitter, e oggi viene intervistato dal Foglio, questa iniziativa qualche giorno fa. Datemi un'isola, un'isola, Italia o Grecia, datemi un'isola e io la trasformo in un posto dove mettere 100.000 immigrati. Caro Renzi, vendimi un'isola, dirò alla Scolari l'articolo, l'intervista, lo incontra in Egitto. Certo, dice Sawiris, ma tanto nessuno farà nulla. Io però sono un tipo serio, e alla domanda ma lei è serio a dire di voler comprare un'isola da Italia e Grecia? Questa non è una buona domanda, risponde Sawiris. Puoi farla a chiunque altro, ma se la poni a me è una domanda stupida. Questa è la risposta di Sawiris, perché io sono una persona che dico quello che faccio. E allora dico: Grecia o Italia, vendetemi un'isola, dichiarerò la sua indipendenza, darò rifugio ai migranti, darò lavoro a loro nella costruzione del loro nuovo paese. Così inizia l'intervista al tycoon egiziano di 61 anni che dice: sono una persona che realizza quello che dice e si sa. Parla dal Cairo ed è indispettito da chi dubita della sua serietà e critica la mancanza di reazione dei governi. Ho scritto a Renzi, ho incontrato anche la presidenza della commissione esteri, ho incontrato Pier Ferdinando Casini che era in visita al Cairo fino a mercoledì, e Casini conferma al Foglio: certo, ci ha detto di aver mandato una lettera a Renzi e al premier greco con l'idea di ospitare 100.000 persone in un'isola. Lui è serissimo al riguardo, ma non sono convinto della fattibilità, dice Pier Ferdinando Casini. Ma Sawiris insiste in questa intervista al Foglio: non sono il tipo che sta seduto lì a far nulla, non mi occorre niente, non ho bisogno di fama, sono già famoso, non ho bisogno di soldi, non c'è nulla per me in questa iniziativa, voglio soltanto avere la coscienza pulita. Perché dovrei scherzare sul fatto che muoiono persone? E ho già l'idea di come chiamare quest'isola, la chiamerò Aylan, come il bambino siriano morto sulla spiaggia di Bodrum, la cui fotografia ha scioccato il mondo. Questo è Naguib Sawiris sul Foglio. A proposito di Aylan, vi segnalo che Repubblica intervista il padre di Aylan. Lo fa Fabio Tonacci, sono due pagine 6 e 7 di Repubblica. La morte dei bimbi non sia inutile, ora il mondo fermi la guerra in Siria. Dice il padre di Aylan: ho perso tutto, non ho più niente da chiedere alla vita, ma tutti devono guardare questa fotografia perché credo che attraverso questa immagine i miei figli possano in qualche modo aiutare i bambini siriani. E che lezione dobbiamo imparare, signor Abdullah Kurdi? Che la guerra in Siria va fermata al più presto, risponde lui, perché i siriani non scapperebbero dal loro paese se non fossero costretti. E lei chi rimprovera? Io rimprovero le autorità del Canada perché hanno rifiutato la richiesta di asilo nonostante ci fossero 5 famiglie disposte a sostenerci economicamente. Volevo trasferirmi là insieme alla mia famiglia e quella di mio fratello che ora è in Germania. Non avremmo nemmeno pesato sulle casse del governo canadese, ma non ci hanno dato l'autorizzazione e non so perché. Questo è l'appello del padre di Aylan, Abdullah Kurdi. Lo trovate intervistato su Repubblica. Beh, è il momento del nostro Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno, buongiorno caro Alessandro, e soprattutto tanti auguri a Mattia. Ti ringrazio. Da parte mia. Mio figlio che compie 7 anni, per chi non avesse sentito, finita la pagina del libro Cuore. Chiudiamo questa pagina del libro Cuore. L'ho portato a San Siro per la prima di quest'anno, Milan-Empoli, era molto contento. Carlos, Bacca! Urlava. Che peccato. Mi ha anche chiesto alla fine della partita se Bacca fosse velenoso. E io non ho... Questa è una freddura che non so quanto verrà apprezzata. Ti giuro, me l'ha chiesto. Papà, ma Bacca è velenoso? Ma forse l'esempio del padre non gli è d'aiuto in caso, potremmo dire. Volevo restare un po' in tema libro cuore. No, nel senso, su una cosa molto seria, cioè i profughi, i migranti. Cioè, oggi raccontiamo su Sole 24 Ore, oltre alle questioni di cronaca, appunto, il piano della... suddivisione di queste quote con meccanismi di opt-out, ma insomma con sanzioni per chi non si dichiara disposto ad accogliere i profughi, raccontiamo questa vicenda, questo esempio della provincia autonoma di Trento che adotta i migranti. Te lo racconta Mariano Maugeri, un piano di appunto ospitalità in famiglie di piccoli centri, che così diciamo scongiura anche la creazione magari di quartieri che possono diventare poi dei ghetti. Ma lo spieghiamo tutto oggi su Sole 24 Ore insieme a molte altre cose. Una ti sarà cara: stiamo facendo grandi passi avanti sull'abolizione delle province. L'ho vista. Però con una brutta notizia, mi sembra. Era ironico, perché come ti spiega Gianni Travati, qui c'è un problemuccio. I dipendenti delle abolende province devono spostarsi altrove, come è noto, ma potrebbero spostarsi altrove con una riduzione di stipendio. Questo è un punto. Saranno contenti. No, immagino di no, non lo sarebbe nessuno di noi. E oltretutto non si sa bene come operare, perché spieghiamo appunto su Sole 24 Ore, la legge dice una cosa ma il decreto ne dice un'altra, e quindi vedremo come si riuscirà a disinnescare questo passaggio. Poi importante, a proposito di lavoro, oggi cominciamo e andiamo avanti per 4 giorni una guida al Jobs Act, insomma la riforma del lavoro, perché dopo l'approvazione venerdì scorso degli ultimi 4 decreti diciamo principali, possiamo spiegare che cosa contengono questi decreti. Tra l'altro, quello di cui parliamo oggi è importante, perché si riferisce alle semplificazioni. Ci sono anche delle semplificazioni importanti per i lavoratori disabili, quindi invito a leggere le pagine di Norme e Tributi, dove, caro mio, troverai, essendo martedì, il condominio. Bravissimo. E ti parliamo di lavoretti gratuiti, sai, aiutare a fare, curare il giardino, pulire le scale, così via. Attenzione, perché poi il lavoro dovrebbe essere, come dire, remunerato da una provvidenza, una prestazione economica, e quindi è da capire, perché altrimenti si rischia che il condominio prenda delle multe. Ti spieghiamo tutto nelle pagine di condominio di oggi. Ti voglio poi segnalare, non è nelle pagine Norme e Tributi, ma sappi che il Vaticano sta semplificando l'iter per l'annullamento dei matrimoni. È vero. Oggi si conosceranno i dettagli, ma intanto ti anticipiamo qualcosa. Questa volta non in Norme e Tributi. E sempre non in Norme e Tributi abbiamo delle indiscrezioni sullo SREP. Sì. Mancava questo, sì, effettivamente. No, si tratta della revisione prudenziale che la Banca Centrale Europea conduce sulle maggiori banche europee. 123 in tutto. Come ci riferiamo in finanza, abbiamo delle indiscrezioni su come è andata per le banche italiane. Pare abbastanza bene, per alcune anche decisamente bene, ma se leggi nelle pagine di finanza trovi tutto. E a questo punto, caro Alessandro, augurandoti naturalmente tutto il bene assolutamente. E a questo punto, traffico. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Alino Milan, il cinghiale dell'informazione. Vabbè, ognuno dà sfogo a ciò che ha nella testa. Allora, la politica dibatte sulla questione del Senato. So che il tema appassiona, come l'idea di pagare le tasse questa mattina, moltissimi italiani, ma appassiona moltissimo i politici e i giornalisti che si occupano di politica. L'obiettivo di Renzi è quello di chiudere il 15 ottobre. Sapete che c'è un dibattito sulle elettività del Senato, se non lo sapete, comunque vede fronteggiarsi la minoranza del PD e la maggioranza del partito. Renzi dice: entro il 15 ottobre si decide tutto al Senato, e poi dopo 6 letture parlamentari, 4 sono ancora da condurre in porto, saranno gli italiani a decidere con un referendum, sì o no. E poi dicono che non è un processo democratico. Alla faccia! Questa è la posizione di Matteo Renzi. Ci sarà che cosa? Dibattito stasera, racconta Goffredo De Marchis su Repubblica a pagina 10. Renzi affronterà il partito, c'è la direzione del partito, la posizione secondo Repubblica di Renzi sarà quella di volere annusare l'aria, così dice ai suoi collaboratori, quindi non andare giù pesante, ma dire annusiamo l'aria, capire qual è l'umore del gruppo dei deputati del PD, se il disinteresse assoluto della base per questa materia, come spiega il Premier, ha creato un'atmosfera diversa dai senatori del PD. Avete capito? Anche Renzi ammette che c'è un disinteresse assoluto della base del partito per questa materia. Pensate della base del partito, pensate dei cittadini comuni, che interesse ci può essere a come si trasformerà il Senato. Però è il dibattito politico che terrà banco nei prossimi giorni. Prossimi giorni nei quali forse Berlusconi invece non ci sarà, perché sarà da Putin. C'è un giallo. Andrà o no da Putin per 5 giorni a partire da domani fino a domenica Silvio Berlusconi? Non resta attendere che domani per capirlo. Siete molto interessati, lo so anche a questo, perché Silvio da Putin, fuga di 5 giorni, annullati comizi e riunioni, giura Repubblica, mentre il Messaggero dice che fino a ieri era ancora in forza questo viaggio. Va bene, intanto la Cassazione ha spiegato le motivazioni dell'assoluzione di Amanda Ansiosissima Knox negli Stati Uniti e Raffaele Sollecito nel delitto di Meredith Kercher. E in pratica la Cassazione ha scritto, stroncando le indagini, traducendo praticamente, ha detto che se le facevamo noi qui di 24 mattino le indagini venivano meglio. Sentite la Cassazione: una serie di errori clamorosi da parte degli inquirenti, da parte degli investigatori. Per esempio, basti considerare i rilievi della polizia giudiziaria sulla banale media aritmetica tra un possibile termine iniziale e un possibile termine finale per stabilire l'ora di morte presunta di Meredith Kercher. Cioè, siccome l'ultima notizia l'hanno avuta alle 18.50 del 1 novembre e quella successiva alle 4.50 del 2 novembre, hanno fatto una media aritmetica per stabilire l'ora presunta della morte, alle 23.30 circa. Questo scrive la Cassazione, incredibile scelta degli investigatori. Oppure le indagini genetiche acquisite in violazione delle regole consacrate dai protocolli internazionali, il coltello da cucina rinvenuto in casa di Sollecito, ritenuto arma del delitto, repertato e poi custodito in una comune scatola di cartone, il gancetto del reggiseno della vittima, trascurato e lasciato lì sul pavimento per 46 giorni. Cioè una serie di incredibili errori, scrive la Cassazione, che hanno determinato l'incertezza e non stabilire da subito. Infatti sono stati prima giudicati colpevoli, poi assolti in via definitiva. Amanda Knox, che dagli Stati Uniti ormai scrive sul West Seattle Herald, un giornale della sua città, dice: sono contentissima oggi, anche se ho fatto 4 anni di carcere e questo è il mio cruccio per sempre. Vabbè, siamo anche in diretta su Periscope per salutare la Carta Costa in velocissima chiusura. Eccola qui su Libero, una pagina su Elisabetta, regina dei record e di corna del marito. Regina di record di anni e di corna del marito. La tocca piano, Libero, la tocca piano. Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia, con l'etichetta multimediale, ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Ciao Milan, che te mattino via fuoco. Toglietevi tutto, ma non il mio Alessandro Milan. Sa più bello che sei tutto te. Allora, alle 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Guarda un po', e lo dico per il secondo giorno consecutivo, stai a vedere che anche la Merkel verrà fuori come il politico che sta mostrando più visione, più coraggio. Un coraggio non indifferente quando dice stanziamo 6 miliardi per i profughi, quando ringrazia i tedeschi che hanno offerto un'immagine del paese che ci rende orgogliosi, e quando aggiunge che ci sarà bisogno di uno sforzo collettivo. Certo, anche lì in Germania ci sono le proteste, c'è chi non è d'accordo, pensate che ci sono perfino degli sparuti gruppi ancora di neonazisti che manifestano. Ma la Merkel forse sta dimostrando, almeno questo è il mio parere, che la politica può e deve dare delle risposte quando è una politica fatta in modo serio, in modo rigoroso. E sicuramente la accusano di volere solo quelli che scappano dalla guerra, i siriani, gli afghani, mica i disperati che arrivano dalle zone dell'Africa subsahariana senza una lira. La accusano di volere insomma una forza lavoro qualificata, qualcuno che sappia fare, sappia incidere sulla produttività del paese, della Germania futura, mica quelli che non sanno fare niente. E va bene, intanto Angela Merkel reagisce così. C'è però un altro fronte su cui ci interroghiamo da giorni e vedo che i giornali insistono, e più che i giornali anche la comunità internazionale, il presidente Hollande l'ha detto chiaramente: bisogna andare in Siria e colpire, andare a distruggere quelle basi dello Stato Islamico che sono una delle cause, delle fonti di queste migrazioni moderne, visto che molta gente fugge da quei territori. Renzi ieri a Porta a Porta ha detto subito chiaro che no, non seguiremo la Francia. L'Italia non partecipa a delle iniziative come quelle che Francia e Inghilterra per il momento hanno annunciato di studiare. A mio giudizio occorre che la comunità internazionale abbia un progetto di lungo termine, perché le iniziative spot servono e non servono. Così Renzi. Dall'altra parte Salvini è netto. Io invece sosterrei, fossi al posto di Renzi, domani mattina un intervento militare deciso per sterminare in Siria, in Libia e ovunque siano i tagliagole dello Stato Islamico. Allora, saluto Giuliano Ferrara, già direttore del Foglio. Buongiorno Ferrara, ben buongiorno. Ritrovato, come va? Bene. Ho messo a fianco Renzi e Salvini perché sono poi quelli delle bestie, dei vermi. Sconforta un po' vedere che, per carità, ci sta in un comizio, ci sta nelle risposte, ma sconforta di fronte al rigore di Angela Merkel, o sono troppo visionario, troppo mi devo trasferire in Germania? Va bene, abbiamo viste tante, il linguaggio della politica italiana certo non è interessante, non è significativo, è fatto di umori, di... però insomma non sarei a fermarmi su questa cosa qui. Insomma, sì, si insultano, vabbè, ma non è una novità. Non è una novità. Però ma Angela Merkel ne rischia di diventare adesso un'icona un po' in questa stampa? Ma guarda Alessandro, io penso che ci saranno reazioni molto forti, perché non è che adesso è tutto passato e tutta l'Europa si ritrova nelle immagini di quelli che prendono l'automobile, vanno a Budapest e portano gli immigrati oltre la frontiera austriaca. E non è che gli applausi alla stazione di Monaco, il pane, la minestra calda, i presidenti del Consiglio, ex presidenti del Consiglio con questa specie di piccolo santo ungherese che ospitano nelle loro case o residenze di campagna, oppure ospitano proprio a casa loro chiudendosi in una stanza con figli e moglie, gli immigrati faranno scuola. No, questo non c'è da attenderselo. Ho visto che in una parrocchia del Veneto, nonostante lì sia il vescovo e poi il papa a dire, a spingere, accogliete, insomma, hanno cercato di mettere una canonica agli immigrati. E c'è stata una fronda. Ma no, una fronda, c'è una protesta. L'80% dei fedeli che hanno detto non se ne parla nemmeno. Queste strutture sono state fatte per accogliere preti, fedeli cristiani, eccetera, e non i musulmani. Insomma, i problemi ci sono e ci saranno, ed è normale che sia così. Il punto fondamentale secondo me è l'accoglienza, che è doverosa e che è impossibile rifiutare, sì, perché qui non si tratta di un normale ciclo di immigrazione, si tratta di un esodo. Allora, l'esodo è un'altra cosa, pone problemi di natura radicalmente etica. Quindi c'è un esodo, c'è una fuga disperata di popolazioni che non ce la fanno verso l'Europa, e insomma, o chiudi le frontiere o le apri. Questa è una cosa che noi del Foglio teorizziamo da un sacco di tempo. Sì. Se chiudi le frontiere, però poi devi scontare le conseguenze. Le conseguenze sono non soltanto quelle che retoricamente si dice riguardano l'anima dell'Europa, sono conseguenze molto più serie. Vuol dire che tornano le frontiere nazionali, che l'Europa diventa una fortezza, che non ha senso il mercato unico, la circolazione delle merci. Insomma, è una grande regressione, quindi non puoi farlo. Allora le devi aprire, perché quella cosa a metà, con la gente che muore, i bambini che si depositano sulla spiaggia come dei pesciolini morti, non, insomma, alla lunga non è sopportabile. O anche chiuderle poi, aprirle e poi chiuderle come a Ventimiglia, dove ci sono persone ancora sugli scogli da non so quanti tempo. Sì, vabbè, quelli sono poi casi particolari, complicati, locali, eccetera. Però adesso la tendenza fondamentale è quella di prendere e redistribuire quote ingenti di persone umane che sono parte di un esodo. Va bene. Il mio problema è, ma questo l'Europa lo fa perché ha scoperto la bontà, perché adesso predica i valori evangelici, perché è diventata un buon samaritano? Se lo fa anche per questo, che cosa vuol dire, diciamo, come missione dell'Europa? Vuol dire che non che l'Europa perde la sua identità, come teme il premier ungherese Orbán, e che l'Europa, diciamo, si mescola multiculturalisticamente con altre etnie, altre religioni, eccetera, si lascia invadere anche spiritualmente da una grande massa di cittadini che vengono da un'altra civiltà e no, vuol dire che l'Europa ha un sistema verso il quale loro tendono, l'esodo si muove, perché l'Europa ha una sua forza, una sua identità, è il luogo della prosperità, della pace, dell'eguaglianza, del lavoro, del reddito, no? È un posto. Allora questa identità va affermata nella questione più importante oggi nel mondo, fermare le guerre. Ma appunto, a proposito di questo, tu ieri sul Foglio, direttore, scrivevi che con lo stesso vigore usato nel dire la verità del diritto d'asilo, i governi europei e anche americani dovrebbero affermare il diritto di intervento lì in... Quindi fa bene Hollande intanto? Ma io dico che fino a che non è stato eletto Barack Obama, persona nella quale peraltro... sotto il profilo culturale, personale, la sua bella retorica umanitaria, eccetera, molti di noi avevano, non dico puntato le loro speranze, perché io ho sempre avuto dei dubbi politici sulla sua formazione culturale, sulle le elite di cui era espressione, però insomma non è certo una persona che uno dice ah che schifo Obama, no, Obama un suo fascino ce l'ha avuto e tutto il mondo è stato riconosciuto, però poi abbiamo coccolato questo circolo inaugurato da Obama e il circolo è diventato vizioso, perché un Occidente che era all'offensiva, con costi umani, con soldati che si sono sacrificati e sono morti, con il tentativo, cioè, l'Occidente che ha impiccato Saddam Hussein è una cosa, poi c'è l'Occidente che sta subendo l'impiccagione del custode di Palmira, per qualcuno... l'esodo, le decapitazioni e l'immigrazione nelle terre dell'ISIS, dove è nato lo Stato Islamico, di parte della sua gioventù più ansiosa e più romantica. Ferrara, per alcuni l'ISIS è invece il prodotto di quell'Occidente pre-Obama, non quello post-Obama. Ma come si fa a dire una cretinata di questo genere? Cioè, Bush aveva, forse ha sbagliato delle cose, certo, lui, Rumsfeld, Cheney, il Pentagono, l'amministrazione americana, figuriamoci, di errori se ne fanno, le guerre sono un tessuto, un ordito di orrori e di errori, però la linea la direttrice di marcia era cambiare la mappa del Medio Oriente, dare la possibilità in Medio Oriente a nuove classi dirigenti di far mettere radici, non dico alla libertà di Jefferson, non dico ai grandi miti occidentali che dalla rivoluzione francese in poi hanno fatto della persona umana il centro, no, neanche un capitalismo di mercato, questo no, ma insomma un qualcosa che andasse in quella direzione, che fosse meno regressiva, che fosse lontana dal fanatismo, eccetera. Questo ciclo si è fermato, fermato nel secondo mandato di Bush, e contro questo ciclo è nato il fenomeno Obama e si è schierata l'Europa in belle. Tra l'altro, il risultato lo vediamo, 250.000 morti in Siria, guerre civili come se piovesse, nascita dello Stato Islamico, accordo con l'Iran, Europa divisa, eccetera, eccetera, eccetera. Allora io dico, se accogliamo centinaia di migliaia di persone, dobbiamo porci il problema di aggredire la causa dell'esodo, dobbiamo porci il problema di esercitare una funzione non coloniale, ma una funzione progressiva di esportazione della libertà politica e della democrazia e di protezione dei diritti umani dove le guerre ci sono e producono. Non è facile. Sì, non è facile. Certo, no. Forse poi la ricetta non è quella di qualche bombardamento aereo come preannuncia no, Olanda. Non è facile, che poi... sì. Esatto. Io però voglio fare sentire, Ferrara, il nostro ascoltatore, a te, una persona che l'ISIS l'ha vista negli occhi. Si tratta di Domenico Quirico, che è stato tenuto prigioniero in Siria da fanatici islamici e che più volte ci aveva detto non mi volevano neanche toccare perché mi consideravano impuro. Allora Domenico Quirico l'abbiamo sentito poco fa, aveva un aereo, sentite che dice sulla possibilità anche di intervenire in guerra. Che fare? Ripeto, io ho un mio concetto dell'ISIS come pericolo globale, cioè con costruzione di un sistema, tentativo di costruzione di un sistema totalitario. Questo richiede una mobilitazione completa di tutto l'Occidente e di tutti i suoi alleati per cercare di fermarlo, ma temo che alla fine loro stessi ci abbiano imposto una scelta radicale, cioè o noi o loro. Non esiste con l'ISIS alcuna possibilità di mediazione, è forse la prima occasione nella storia in cui l'avversario rifiuta qualsiasi tipo di contatto perché ci considera impuri. E tutto questo ci porta purtroppo a soluzioni che devono essere quelle di rioccupare quei territori, scegliere la tattica del bombardamento e poi affidarci a degli alleati locali, tra virgolette, sciiti, iraniani, curdi, eccetera, secondo me non porterà da nessuna parte, se non ad una stabilizzazione del califfato, che è il pericolo più grosso. Però esiste la possibilità di una coalizione internazionale che possa rioccupare il territorio? In fondo l'abbiamo già fatto e secondo alcuni non ha portato bene. Il problema non è che non abbia portato bene, il problema è che oggi credo che non ci siano paesi in Occidente, compresi gli Stati Uniti, che siano in grado, sempre che lo vogliano evidentemente, che siano in grado di sopportare il costo politico di una guerra, quale quella che ci impone l'ISIS. Questo è l'elemento fondamentale della nostra debolezza, è quello su cui l'ISIS ha costruito la sua strategia. Ha intuito che l'Occidente non può oggi combattere una guerra perché non ne può pagare il costo politico, cioè i leader occidentali non ne possono pagare il costo politico. Perfetto, Domenico, ti ringrazio tantissimo. Questo è quello che ha detto Domenico Quirico. Ferrara, allora abbiamo questa forza politica per fare una guerra, che poi vuol dire andare lì boots on the ground, cioè con gli stivali a calpestare la Siria, ancora a combattere casa per casa. Per Quirico no, è questa la debolezza occidentale. Ma può essere che Quirico abbia ragione, sarebbe molto sconfortante, vuol dire avere perso in anticipo, vuol dire mettersi in una condizione di autodifesa e per di più di autodifesa bucata, perché allora se noi non facciamo nulla, se si stabilizza uno Stato islamico ispirato al fanatismo, alla persecuzione religiosa dell'altro, allo sterminio dei cristiani e degli yazidi, alla cacciata degli infedeli, alla distruzione delle rovine archeologiche di Palmira, 2000 anni di civiltà che vanno in fumo a colpi di tritolo. Insomma, se noi ci prosterniamo a un califfo che la storia ha inventato quasi per scuoterci e farci capire come stanno le cose, visto che non bastavano le messe in guardia delle persone con la testa sulle spalle in Occidente, se ci prosterniamo, certo, poi ne dobbiamo subire le conseguenze, non c'è dubbio. Però in astratto io credo che non si possa così generalizzare, cioè non c'è la possibilità, non si può. Adesso c'è un fatto insieme sociale, economico, umanitario, etico e politico, cioè un esodo drammatico che attraverso la Turchia, la Macedonia, per vie di terra o per vie di mare, invade la costa sud del Mediterraneo e invade il cuore dell'Europa pulsante, economico, sì, politico, la Germania, l'Austria. Allora, questo fatto non può non essere fronteggiato da un lato con una riaffermazione di civiltà. Tu, un profugo che scappa dalla morte, non lo lasci affogare in mare e non lo lasci morire alla frontiera e non gli spari contro quando cerca di entrare nel tuo paese. Ma dall'altro questa riaffermazione di civiltà vuol dire che tu diventi titolare più ancora del passato di un diritto di intervento. Ma chi è il nostro amico? Non c'è solo il diritto, il dovere d'accoglienza, c'è anche il diritto di intervento. Certo, ma e chi è l'amico? Assad? Il dittatore Assad? Sì, questi sono i grandi problemi geostrategici del posto, perché Assad controlla una piccola parte della Siria, ma importante. Cioè noi abbiamo un trauma. Quando tu distruggi le classi dirigenti anche pessime, insomma, le tirannie, chiamale come ti pare. Non c'è nessuno, anzi, locali, o ci sono quelli peggio. Gheddafi, un'idea tramba degli anglo-francesi con la guerra di Libia in 7 mesi di bombardamenti, gli mandi i servizi segreti, le bande lo vanno a prendere, eccetera, e tu non hai realizzato uno stato credibile. Porti a una specie di un insieme di stati canaglia, di bande, di tribù anarchiche, e porti anche lì a morti, si apre una via di emigrazione dalla Libia, dai mari della Libia, che fa 3.000 morti nei primi mesi di quest'anno, cioè crei un casino e un subbuglio senza speranza. E quindi diciamo hai fatto un grande errore. Allora, siccome abbiamo questo trauma, pensiamo sempre, cioè, non allora possiamo mettiamoci d'accordo con i russi, puntelliamo Assad, eccetera. Ma qui c'è un problema più di fondo. Io naturalmente non sono né il ministro degli esteri, né il presidente del Consiglio, né il presidente francese, né la Merkel, ma insomma esiste la politica, esiste la diplomazia ed esiste la deterrenza militare. Se queste tre cose vengono impiegate nella direzione di far capire che non ce n'è più per nessuno, cioè che non esiste che uno che si improvvisa califfo costruisce uno Stato con i proventi del petrolio e con i proventi ricavati in vario modo banditesco e impone la schiavitù e le persecuzioni dei cristiani. Questa cosa qui non ci può essere, il solo fatto che ci sia è la condanna dell'Europa. Lì veramente si perde l'anima di un continente, cosa che retoricamente abbiamo continuato a dire solo e soltanto in relazione al diritto d'accoglienza. Allora, io intanto ringrazio Giuliano Ferrara perché ci ha dato alcuni spunti, grazie a Ferrara, che vorrei sviluppare dopo la pubblicità con l'ambasciatore ungherese in Italia. Sarà ai nostri microfoni, è la prima volta che sentiamo, visto che si parla del governo Orban, sempre molto criticato a livello europeo. Peter Pazzolai è l'ambasciatore ungherese in Italia e sarà ai nostri microfoni. 800 24 0024 è il numero verde a vostra disposizione per intervenire in diretta. Chiamate. Eccoci qui, siamo nuovamente in diretta, il numero per intervenire se volete 800 24 0024. Sapete che è uno dei paesi che è stato anche più esposto a critiche nel centro dell'Europa in questi giorni è l'Ungheria. Per questo io sono molto contento di ospitare l'ambasciatore dell'Ungheria in Italia, Peter Pazzolai. Ambasciatore, buongiorno e grazie di essere qui in diretta a Radio 24. Buongiorno e saluto anche gli ascoltatori. Senta, ambasciatore, ci spiega perché in questi giorni avete tenuto fermi prima che andassero in marcia verso l'Austria spontaneamente centinaia di persone, di profughi, soprattutto siriani, a Budapest? Sì, io vedo le cose in modo seguente. In Ungheria in un certo senso è intrappolata in questa situazione perché da una parte abbiamo questa ondata di migranti, 160.000 quest'anno sinora, sì, per un paese di 10 milioni di abitanti. Poi c'è l'obbligo di difendere prima di tutto la frontiera, non solo la frontiera propria, ma la frontiera di Schengen. Della verità non siamo capaci, né l'Ungheria né l'Unione Europea non è capace di difendere, cioè i migranti, profughi, rifugiati entrano nel nostro territorio. Secondo obbligo è registrare i migranti, questo è a causa del trattato di Schengen. Sì. Invece i migranti questo lo rifiutano proprio per le regole del trattato di Dublino, perché non vogliono essere registrati qui, siccome allora potrebbero rinviati o dovrebbero fermare in Ungheria. Invece loro vorrebbero proseguire per la Germania. Quindi mi scusi, qui. Voi li tenevate lì perché li volevate registrare, identificare? Sì, Ungheria finora, appunto secondo il Corriere della Sera, ha registrato 120.000 migranti quest'anno. Non voglio dire il numero degli altri paesi che non superino, salvo la Germania che ha registrato, sì, 180.000 almeno. Cioè questo è il sì, però mi scusi, certo, però l'Ungheria, sì, non ha dei centri dove identificarli, cioè erano lì buttati, ammassati in stazione, tanto che sono dovuti partire dall'Austria persone comuni a dire veniamo noi a salvarvi, cioè che immagine avete dato dell'Europa? Sì, purtroppo questo è stato in mira di critiche, sebbene abbiamo diciamo centri di accoglienza naturalmente stabiliti improvvisamente alla frontiera vicino alla Serbia. Invece questi rifugiati o non vogliono entrare in questi centri di accoglienza chiamati ufficialmente perché vogliono proseguire o perché... Anzi, si ribellano, si scappano, come è successo anche ieri notte, hanno scappato via da uno di questi centri e si mettono in strada camminando a piedi. Sì. Così Ungheria ha deciso proprio il venerdì notte di con 100 pullman trasferire i rifugiati alla confine austriaca, ma abbiamo dovuto aspettare giorni per una risposta positiva dall'Austria che hanno insomma, ma questa, mi scusi, la cancelleria Merkel, ecco, sì. Ambasciatore, è una sorta di ammissione di sconfitta rispetto alla durezza che voi avete mostrato, quella poi di dire ok, andate pure in Austria, andate pure negli altri paesi? No, perché allora l'Ungheria è colpevole perché non prosegue le regole del trattato di Schengen, non osservi le regole del trattato di Dublino. Invece ci sono centri di accoglienza, ci sono anche centri di transito proprio vicino la stazione Keleti che era proprio nel centro dei reportage dei telegiornali questi ultimi giorni alla fine settimana. Ma dice sono loro che non volevano andare lì, si rifiutavano. No, loro volevano andare, poi c'è questa confusione con i treni perché i treni non potevano, per esempio fino a sabato notte, portarli fino all'Austria, dovevano salire prima della confine, continuare in piedi. Sì, insomma, poi c'è anche una ondata. Devo dire che le forze d'ordine ungheresi sono quasi tutti qua alla frontiera a Budapest, ma parlando di un paese abbastanza piccolo, anche il numero del rispettivo delle forze d'ordine, sì, non è molto molto. Però ambasciatore Pazzolai, le faccio ascoltare ciò che il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha detto criticando il governo Orban. Era il comizio alla festa dell'unità domenica davanti alla base dunque del suo partito. Senta cosa ha detto, sì, Renzi. Se il modello è l'Ungheria di Orban, noi siamo orgogliosamente un'altra cosa. Cioè dice, se il modello è l'Ungheria di Orban, noi siamo orgogliosamente un'altra cosa. Prende le distanze, dice, da quel modo molto duro, fermo di trattare i migranti. Che risponde lei? Io, insomma, noi abbiamo, diciamo, giornalisti che sono andati che hanno partecipato in questi transiti, che hanno clandestinamente passato il confine insieme con i migranti e così via. Questi esempi che vediamo nei giornali, io non so su quale cosa sono insomma basati, e non sentiamo insomma nessun senso di solidarietà per le autorità ungheresi che con questa ondata inaspettata insomma devono confrontarsi da solo. Ma sa, perché l'Ungheria è stata rappresentata come il paese che ha fatto il muro con la Serbia, non c'è più l'Europa dei muri, capisce ambasciatore? Quindi è stata percepita come un paese molto molto chiuso, molto duro su questo tema. Purtroppo c'è questa sensazione, lo osservo anch'io. Invece questa, diciamo, questa Pilato, di, sì, stiamo parlando di alto 1,50 m, questo non è un muro, perché poi non può neanche servirsi come un muro, questa può un po' controllare non l'entrata, ma diciamo canalizzare il percorso verso le porte ufficiali di accoglienza, dove la gente si può entrare. Ma io sono un po' colpito che l'Europa ci aspetta di lasciare i migranti entrare a qualunque posto della frontiera. Questo, poi all'altra parte dicono che voi avete l'obbligo di difendere la frontiera, se la frontiera è assolutamente aperta, tutti entrano dove vogliono. 5.000 persone in diciamo 3.000 punti differenti. Sì. Sì, lei dice come si può difendere la frontiera se entrano da tutte le parti. Io intanto la ringrazio, ambasciatore, perché devo andare a dare le informazioni sul traffico e poi sentire gli ascoltatori. Peter Pazzolai, ambasciatore di Ungheria in Italia, la ringrazio anche perché le voci appunto dell'Ungheria, dei ufficiali ungheresi, non si sono sentite molto in questi giorni. È sempre stato spesso criticato il suo paese, ma insomma questa è la sua versione che è venuta a dirci a Radio 24. Il traffico. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta. Allora, le 8:51 minuti, vorrei sentire Jacopo che ci chiama da Reggio Emilia. Eccoci, Jacopo. Buongiorno, buongiorno Milan. Guardi, io sono rimasto esterrefatto quando ho sentito le dichiarazioni di Ferrara. Sì. E lei adeguatamente gliel'ha fatto notare, ma Ferrara ce lo ricordiamo come fan sfegatato di Bush. Adesso non c'è il tempo per fare una lezione di storia, ma la destabilizzazione dell'Iraq, i sunniti hanno a braccia aperte, hanno accolto gli uomini del califfato, perché in questo periodo sono stati perseguitati, messi da parte. Questo è il disastro che è stato provocato da George Bush figlio, che Ferrara ha accolto a braccia aperte. Il padre di Bush non l'aveva fatto quell'errore storico. In questi anni loro hanno giocato allo state building, hanno costruito una nazione, e l'anno poi Obama risponderà di tutti i suoi errori, di tutte le sue timidezze, ma la politica neoconservatore che però vede che Jacopo esatto, la questione è questa. Per Ferrara, io appunto, come dice lei, gli ho fatto notare, per Ferrara questa è una cretinata, per lei invece è così. Ma certo, perché Ferrara poi... sa cosa fa Ferrari? Difende le cretinate che ci ha spacciato lui per 10 anni quando c'era George W. Bush. Oppure è una sua idea, può essere, no, che lui la pensi diversamente. Però Jacopo, capisco, ed è una lettura, come ho detto io, che hanno molti, cioè che non che bisogna andare in guerra, ma che il prodotto, la situazione attuale, sia il prodotto delle guerre che abbiamo fatto. Ieri avevamo Massimo Fini, che come sa la pensa ben diversamente, anzi ha detto: sono stanco di sentire gente che ci propina le tesi di Giuliano Ferrara. Ma questo è un porto franco, come sapete, qui ascoltiamo le idee di tutti, e poi voi che siete molto intelligenti come Jacopo da Reggio Emilia vi fate le vostre conclusioni e avete le vostre idee. Vorrei andare a Milano da Paolo. Buongiorno Paolo. Sì, buongiorno Milan. Io volevo associarmi a quello che ha detto anche l'ascoltatore che mi ha preceduto. Jacopo, cioè, sì. Io non capisco sinceramente se commentatori come Ferrara siano disonesti intellettualmente o sostengano, non lo so, veramente credono a quello che dicono. Come si può pensare? Io credo proprio di sì, che credono a quello che dicono. Non lo so, però come si può pensare che la morte di centinaia di migliaia di persone dettata dai bombardamenti siano dettati esclusivamente dalla voglia di portare democrazia, quando ci sono degli interessi geopolitici enormi? Io vorrei chiedere a Ferrara: come mai gli Stati Uniti, però, tanto zelanti e democratici, sostengono regimi come quello dell'Arabia Saudita, del Qatar, regimi totalmente sostenitori dell'ISIS, sostenitori e finanziatori dell'ISIS, e invece sono così zelanti nell'attaccare stati con tutti i loro difetti e con tutti, se vogliamo, in parte, almeno mi riferisco a Saddam Hussein, crimini, dove c'era un primo ministro che era cristiano, sostanzialmente, Tareq Aziz. Beh, insomma, Paolo, vabbè, laico, ma di cosa stiamo parlando? Io questa è la, cose, no, ma è chiaro, adesso Giuliano Ferrara non è qui per risponderle, però buon tema per una prossima puntata, me lo tengo da parte. Paolo, vorrei sentire Salvatore, però deve essere velocissimo. Salvatore da Piacenza, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Senta, io volevo semplicemente una cosa, cioè secondo me si dà l'impressione che le regole ci siano, però nessuno le deve rispettare. Perché esiste Schengen? Cioè l'Ungheria non ha fatto altro che rispettare quello che era previsto da Schengen. Ma quello che ci ha detto l'ambasciatore, dice, poi c'è il trattato di Dublino, noi dobbiamo tenerli qui per identificarli. Volete difendere il trattato di Dublino sempre? E noi li tenevamo qui. Certo, però le immagini di tenerli così non sono immagini molto edificanti, questo Salvatore. Ma noi andiamo avanti fino alle 9.30. Sapete che voglio mettere una multa per chi butta i mozziconi di sigarette a Roma? Amici di Roma, vi mettono la multa dopo le 9. Un saluto da Maurizio Melis. Il biometano è con tutta probabilità oggi il biocarburante più maturo in circolazione. Intanto perché si produce con tecnologie ampiamente sperimentate, ma soprattutto perché è il primo tra i biocarburanti ad aver superato in larga parte il problema del conflitto tra agricoltura a scopo energetico e agricoltura a scopo alimentare. Questo perché il biometano si produce per lo più da scarti. In Italia si calcola che se ne potrebbero produrre appunto 9 miliardi di metri cubi l'anno, raddoppiando così la produzione di metano nazionale. E a partire dallo scorso 5 agosto, con l'emanazione da parte del GSE delle regole attuative per il trasporto del biometano, questa prospettiva è anche un po' più vicina. Oggi infatti il biometano ottenuto raffinando il biogas agricolo può finalmente essere compresso oppure liquefatto e venduto ai distributori di metano come carburante per autotrasporto. Ne parliamo questa sera a Smart City, qui su Radio 24 alle 20.50. Buona giornata a voi tutti. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Doccia gelata per quanti attendevano dal prossimo anno una nuova mini riforma delle pensioni, una volta tanto pensata non per allontanare ancora di più il momento dell'uscita dal mondo del lavoro, ma per rendere meno rigidi i requisiti di pensionamento che sono stati modificati nel 2012 dalla legge Fornero, che ha eliminato ogni forma di pensionamento anticipato rispetto all'età per la pensione di vecchiaia. In effetti quello sulle pensioni resta uno degli interventi più attesi della manovra per il prossimo anno, ma ieri sera Matteo Renzi ha confermato le voci secondo cui al momento non ci sarebbero risorse per introdurre criteri di flessibilità nell'accesso alle pensioni. Quindi il governo lavorerà a trovare e individuare soluzioni più soft che consentiranno di raggiungere questo obiettivo, ma senza pesare sul bilancio dello Stato. Qual è l'ipotesi della quale si era parlato e della quale ancora si parla? La possibilità di andare in pensione prima di raggiungere i requisiti di età, accettando però il taglio permanente di una quota dell'assegno pensionistico, quindi una piccola rinuncia per poter andare in pensione prima del tempo. Tuttavia, e questo è il punto delicato, un sistema come questo non è neutro per i conti pubblici, perché se è vero che nel lungo periodo l'anticipo con penalizzazione si autofinanzia, nell'immediato richiede una maggior spesa per pensioni da parte dello Stato, spesa che deve essere coperta e al momento di risorse proprio non ce ne sono. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Mattino. Eccoci qui, sono le 9:09, ben ritrovati da Alessandro Milan. Andiamo in diretta fino alle 9:30. Come sapete, per tutto il mese di settembre vogliamo parlare dell'iniziativa che è allo studio al Comune di Roma e che è mutuata da altre città dove già queste sanzioni ci sono. La guerra ai mozziconi di sigarette, alle cicche buttate per terra. Devo dire che via sms al 349-238-6666 sono già arrivati tantissimi messaggi a dire: ma magari, ma va bene, continuiamo così. E io anch'io lo dico, lo sposo a priori, ma magari, magari ci fosse una seria politica di stroncare questo modo di trattare la propria città, i propri marciapiedi, le proprie strade come se fossero una spazzatura. Magari ci fosse questa iniziativa. E allora voglio salutare Rossella Matarazzo, che è vice capo gabinetto del sindaco, con delega alla sicurezza per il comune di Roma. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie per essere qui, per illustrarci, perché ci hanno detto che lei ha in mano un po' il tutto, nel senso che sta mettendo a punto quella che sarà la delibera, che poi dovrà essere approvata ovviamente dalla giunta del comune di Roma. Allora ci spieghi che cosa avete in mente di fare a Roma. Allora, dunque, si tratta di rinnovare il regolamento di polizia urbana, che è fermo a esattamente 68 anni fa. Vorremmo quindi dare appunto un taglio più, sicuramente più moderno e più attinente a quelle che sono invece le esigenze di questo momento. Abbiamo trasfuso all'interno del regolamento tutto quello che in questi anni era stato trattato con le ordinanze del sindaco, che hanno però questo limite di essere contingibili e urgenti, quindi per dare appunto una maggiore tenuta a queste norme abbiamo individuato delle fattispecie introdotte all'interno del regolamento. Una di queste è proprio questa, esatto. Delle cicche di sigaretta. Ma è vero, io ho letto dei numeri, sono impressionanti, cioè quante cicche ci sono come stima e quanto costa tutto ciò per il comune di Roma? Sì, il decoro chiaramente sta molto a cuore al sindaco, alla giunta, a tutti noi, e quindi abbiamo cercato degli strumenti, delle idee perché possa essere veramente, come dire, sconfitto. Abbiamo intenzione appunto di concentrarci anche sul sito UNESCO, e quindi abbiamo in qualche modo pensato ad una tutela rafforzata per tutte quelle condotte non carine che vengono commesse all'interno di sito UNESCO, con una sanzione maggiorata. Ma tra poco le vedremo. Per restare alle cifre, è vero, 11 sì. milioni di cicche stimate al giorno, 4 sì. miliardi di anno di spesa per il comune di Roma. Sì, insomma, questi sono dati chiaramente recuperati, per cui la stima è insomma relativa ai 35 milioni all'anno di turisti, ai 4 milioni di abitanti e ai 500 mila che passano dalla stazione Termini tutti i giorni. Quindi, ma è chiaro che c'è una certa. Ovviamente, ma è chiaro, dottoressa Matarazzo, intanto ci aiuta a capire a che cosa si prevede di sanzioni. Poi ripeto, dovrà essere tutto approvato dalla giunta, però mi dica che cosa avete in mente, cioè se io passo per Roma e butto la cicca di sigaretta per terra, in che sanzioni potrei incorrere? Ma guardi, l'idea è che ci possa essere, ci possano essere due fattispecie. Intanto chiaramente intensificare la presenza dei cestini, perché è chiaro che dobbiamo dare uno strumento ai cittadini. Esatto. Dopodiché il lancio, no? Il famoso lancio del mozzicone col gesto del pollice e l'indice è veramente fastidioso, e vogliamo sanzionarlo con una sanzione specifica per i mozziconi. Detto questo, quanto poi, sarà più o meno? Su quanto pensate di orientarvi? Ad una somma sicuramente superiore a 150 euro. Più di 150 euro? Sì, potrebbe essere sui 200, ma insomma questo è ancora tutto le ripetizioni. Però ci deve essere un vigile, immagino, ci deve essere un vigile lì che dica... Noi come dire, speriamo che non ci debba essere per ogni cicca un vigile, perché no, questo... veramente impegnativo, quindi speriamo che possa essere più un codice deontologico e una norma, no? Una norma morale più che giuridica. Detto questo, sì, sicuramente noi pensavamo infatti nel regolamento, abbiamo individuato anche la possibilità da parte del sindaco di individuare dei soggetti, dei lavoratori del Comune di Roma che possano essere nominati dal sindaco per dedicarsi a questo tipo di attività. Una sorta di pubblici ufficiali, insomma, che possono sanzionare. Sì, Di come chiamarli, ausiliari della città, insomma, ausiliari in qualche modo di vicinanza ai cittadini. Abbiamo anche molto sollecitato la partecipazione di associazioni di categoria, abbiamo individuato all'interno del regolamento proprio la possibilità di convenzioni con associazioni, pensiamo per esempio a Visto Roma è molto attiva Retake, con i quali abbiamo contatti, ecco, cercare di creare anche un po', no, una cultura, ma è chiaro, però, che aiuti. Beh, ma questo guardi è fondamentale, però sa cosa diranno e cosa dicono già molte persone, dicono ma tra i milioni di problemi che ci sono a Roma, per carità lei non fa politica, ma insomma legge i giornali e vede le polemiche che ci sono tutti i giorni, pensare di partire proprio dai mozziconi, invece io trovo che sia giusto, però in realtà, sa, le critiche ci sono. Ma in realtà è un provvedimento molto più composito, perché all'interno ci occupiamo di prostituzione, ci occupiamo... In che modo? Insomma, non è... la prostituzione, anche lì abbiamo creato abbiamo pensato ad un sistema che intanto tenga sullo sfondo la finalità, che è quella appunto del contrasto alla tratta di esseri umani e quindi al contrasto allo sfruttamento della prostituzione. Pensiamo di concentrare le nostre sanzioni sui clienti. Perché, multare i clienti. Certo, riteniamo che insomma, come dire, sia l'anello di una filiera comunque che poi in qualche modo. Ma questa è una grande novità, perché non c'era il progetto, dello zoning, che era una cosa. Ma in realtà lo zoning nasce proprio dall'idea che insomma è ancora chiaramente allo studio, che debba essere vietato a ridosso nei luoghi prospicienti ad abitazioni, a luoghi di culto piuttosto che a scuole, insomma è lo stesso discorso, ma in realtà non è uno zoning nel senso che lì si può fare, quindi noi favoriamo che possa essere fatto lì. No, è il progetto veneziano, è il progetto veneziano molto complesso. È un po' più ampio. Certo, di anche colloquio con le prostitute che magari vogliono uscire dal giro. Perché che abbiamo pensato anche che poi gli introiti di queste sanzioni possano essere utilizzati proprio per progetti di recupero di vicinanza. Sì. Però questa è, dottoressa Matarazzo, cioè questa è una notizia importante, cioè Roma sta pensando, il comune, se passerà alla giunta, in questa delibera, in questo regolamento, di multare i clienti delle prostitute. Con anche qui le sanzioni già si sanno, cioè ti becco con una prostituta. Abbiamo pensato a una sanzione di 500 per i clienti e appunto in quei luoghi di cui le dicevo, anche per la prostituta, ma inferiore, quindi 400 e 350 piuttosto che 450, cioè insomma, comunque per la prostituta 500 il cliente, ma con tanto di sanzione che o uno paga subito o ti arriva a casa, perché sa qua. No, ti arriva a casa, così le mogli saranno lieto di ricevere proprio così l'agonia. Vabbè, lei sa che domani diranno Marino vuole, vabbè, no, le mogli saranno molto ben liete di ricevere a casa, cioè cosa ci sarà scritto in questa, ma c'è la privacy, cosa ci sarà scritto in questa multa? Intanto ci sarà l'indicazione della sanzione, no? La notifica come le sa. Beh, ci sarà violazione del regolamento numero. Sì, poi c'è una violazione. C'è una sanzione anche per i veicoli. Le ripeto, è tutto da vedere, quindi è tutto da rimodulare. Però ci potrebbe essere anche una sanzione per chi in qualche modo effettua delle manovre, no? Vabbè, si può dire alla moglie, mi hanno beccato quindi, che facevo inversione quando non si poteva. Però è difficile dimostrare alla moglie di trovarsi alle 2 di notte sulla salaria. Per dirlo chiaramente. Se mio marito mi dicesse ero alle 2 di notte sulla salaria, mi sono perso. Esatto, è poco credibile. Avrei qualche difficoltà. Però guardi, dottoressa Matarazzo, io voglio presentarle anche Luciano Sinigaglia, che è vice sindaco di Spino d'Adda, provincia di Cremona, quindi siamo in Lombardia. Vice sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. È vice sindaco della Lega, se non sbaglio, mi corregga se sbaglio. Sì, allora, esatto. Voi so che anche una TV ucraina si è interessata al vostro comune, credo venga a farvi delle interviste, perché siete questa mattina stessa, nel pomeriggio una TV bielorussa. Sì. Spero in italiano, insomma, che ci sia il traduttore. Sì, certo, ogni corrispondente. Perché chiaramente voi avete fatto che iniziativa? Avete deciso di dare i cosiddetti giubbettini catari frangenti alle prostitute, cioè se non mettono il giubbettino catarifrangente, per cui si vedono, incorrono in che cosa? In una sanzione? Sì, una sanzione di 500 euro. 500 quindi, euro? Accidenti. Sì, è previsto il giubbettino rifrangente praticamente durante la giornata. Poi dalle 18 di sera i pantaloni rifrangenti come i cantonieri. Ai pantaloni hobby. Anche? Sì, i pantaloni. Adesso io non è che voglio dire, però cioè, vedere una prostituta... Certo, spesso si accusano di vedere delle scene in cui sono seminude, con i pantaloni, con i pantaloni cata di frangente. È un bel deterrente, no? È un bel deterrente. Ma ci sono già le prime multe? Cioè, ci sono delle prostitute? No, perché allora l'ordinanza è appena entrata in vigore. Abbiamo fatto una politica di informazione presso, diciamo così, le operatrici. E quindi adesso sono anche edotte, non possono dire ma non lo sapevamo. E quindi sono partite, partiranno le multe. Si procede, esatto, sì. Come hanno reagito? Ma allora, noi abbiamo una problematica di questo tipo. Durante il giorno abbiamo le ragazze di colore che operano su una direttrice, che è una provinciale, e vanno accolto bene, hanno detto che loro temperano, e in effetti poi sono hanno sì. È andata a controllare, ce l'hanno. Ce l'hanno. Lo metto, esatto. C'è stata una reazione invece diversa dalle ragazze dell'est che operano col turno, diciamo così, di notte, dove c'è stata una reazione contraria, qualcuno ha detto ah non mi interessa, pago la multa, tanto faccio presto a guadagnarli. Tanto dice 500 euro li faccio in mezza serata, mezza nottata. Esatto, qualcun'altra ha detto beh mi sposto, me ne vado da questo comune. E quindi ben venga, è il risultato che noi volevamo ottenere. No, ma certo che io dico ogni giorno gli amministratori o i funzionari ne tentano qualcuna per cercare di contrastare il fenomeno della prostituzione o limitarlo. E dottoressa Matarazzo, che ne pensa lei dell'iniziativa di un'iniziativa del genere, i giubbetti rifrangenti, se no c'è la multa? Voi non pensate a questo? Ma guardi, potrebbe avere un suo appeal anche i pantaloni rifrangenti, sì. Cioè, diciamo che è un mestiere un pantico, per cui potrebbe anche essere un no, ma qualsiasi cosa si fa, ma tanto qualsiasi cosa si fa non si ferma questo fenomeno, che per alcune, per molte purtroppo vuol dire anche entrare in spirale di violenza eccetera, e queste vanno aiutate, vanno stroncati questi traffici di esseri umani, e questo assolutamente, però per altri alcuni ci sono scelte anche di libertà, e quindi forse andrebbero normate, andrebbero regolate. Beh, sicuramente è un bilanciamento tra esigenze molteplici, quindi è chiaro che una regolamentazione o comunque una norma di livello nazionale chiaramente risolverebbe, in qualche modo potrebbe dare degli indirizzi. Sì. In ogni caso, insomma, a Roma la situazione è... diciamo 200 euro, ma si sta studiando un'ipotesi di multa per chi butta il mozzicone, 500 euro di ipotesi di multa per i clienti delle prostitute e anche le prostitute multate sui 400. C'è, se non sbaglio, in questo giro di vite, diciamo così, in vista anche del giubileo, in nome del decoro, anche divieto di accattonaggio molesto, bivaccare in luoghi pubblici, sedersi sui monumenti. Che vuol dire? Cioè, me lo faccia capire, perché Roma è una città che è un monumento città. Non bivaccare, che significa, dottoressa Matarazzo? Ma guardi, noi abbiamo in mente le scene di banchetti sulle scalinate storiche della città. Quindi è chiaro che tutto questo va scritto e sarà scritto con grano salis e quindi con grande attenzione. E noi pensiamo a tutte quelle condotte che in qualche modo creano disdoro alla città, quindi comunque anche nei confronti di tutti i turisti che arriveranno, quindi dovranno comunque approcciare a questi siti con il massimo del rispetto, e quindi appunto non pensiamo al alla ragazzina che mangia il sandwich, ma pensiamo chi si fa il picnic, esatto, pensiamo ad una situazione che insomma in qualche modo disturba anche gli altri, perché poi secondo me alla base di tutto ci deve essere una fruizione libera e consentita a tutti. Leggo anche il divieto, mi corregga se sbaglio, allo studio il divieto di lavare i vetri alle macchine dei semafori? Non c'è un divieto di lavare i vetri, ma c'è un divieto di stare sulla strada e quindi in qualche modo, in modo pericoloso, no? Anche per i pedoni, per le macchie. Ecco, abbiamo pensato alla sicurezza, sì, in questo sì, caso, esatto, più alla più sicurezza delle persone che non a regolamentare questo. Fatemi sentire un ascoltatore, Daniele da Milano. Buongiorno Daniele. Buongiorno Daniele. Spenga la radio però gentilmente. Buongiorno Milan. Dica. Dunque, volevo fare il mio intervento sul discorso dei mozziconi di sigarette. Un plauso alla rappresentante dell'amministrazione pubblica di Roma con una preghiera di estendere questa iniziativa ad altri comuni e perché no anche a tutta Italia. Siamo stati i primi a vietare il fumo nei locali pubblici, mi piacerebbe che l'Italia fosse la prima nazione in Europa. Le faccio questa domanda Daniele, lei lo sa, io non lo sapevo che ve l'ho letto in un articolo, che c'è a Milano per esempio questo divieto con contravvenzione di 450 euro. Sì, però lei lo sapeva? Io non lo sapevo. Sì, lo sapevo, i mozziconi per terra. Il problema è che non c'è nessuno che applica questa sanzione, punto, perché la polizia locale ha altro da fare, i carabinieri, la polizia di Stato lo stesso, e di conseguenza si va avanti così. Forse bisognerebbe precedere questa iniziativa con una forte attività didattica nelle scuole, negli istituti pubblici. Io sono convinto, questa è la mia idea, che per imporre queste cose bisogna usare, se uno le vuole imporre, la mano dura, cioè beccare i primi che faranno ricorso, romperanno le palle, diranno perché a me e agli altri no, beccarli e sanzionarli in maniera... Perché se no, se non c'è l'idea che ti arrivi dall'alto una sanzione che sei obbligato a pagare, diventerà tutto, non dico lettera morta, dottoressa Matarazzo, mi capisco. Guardi, credo che anche una maggiore attenzione al senso civico, anche alla formazione, anche al fatto che gli altri cittadini trovino riprovevole la tua condotta, e che comunque in qualche modo si crei questo, no? Sì, il controllo sociale, un controllo sociale reciproco. Mi chiedono, no, però ho una domanda magari da farle. Nessuno guarda di traverso quello che lancia la città. Questo se sì. Se cominciassimo a guardare di traverso quelli, probabilmente lo farebbero comunque, ma le suggerisco provare. Questo nel mettere il regolamento, ma ha scritto Vittorio Pezzuto, amico, che evidentemente fuma i sigari, dice: non metterete anche il divieto per i sigari, che sono foglie arrotolate, foglie di tabacco e quindi tutto naturale, senza carta, filtri, catrame, anche i sigari? Vale anche per... No, non li lancerà però. No, vabbè, se no, no, dico, ma mettete nel regolamento che non vale per i sigari, cioè il sigaro è... Questo io tranquillizzi il suo ascoltatore, riporto. Valuteremo attentamente. La questione del sigaro, valutatela, perché non è secondaria. Intanto io la ringrazio, dottoressa Matarazzo, dovremo vedere se poi tutto verrà applicato, ma lo studio c'è questo, che abbiamo anticipato il Comune di Roma. Vice Sindaco Sinigaglia, per concludere, Spino Dadda, lei è della Lega, quindi lei le vorrebbe regolamentare come il suo padrone Salvini vuole fare. Riaprire le case chiuse. Assolutamente. Senza... Poi vorrei allacciarmi al discorso del mozzicone, perché è molto attuale. Proprio in questi giorni anche noi abbiamo avviato una campagna di sensibilizzazione presso gli esercizi e i bar con una locandina ad hoc che invita appunto a ficcare il mozzicone nel portacenere. Vabbè, se no sanzioni anche lì? Sanzioni. Per il momento no, c'è solo una campagna di sensibilizzazione, vabbè. Si esclude poi in futuro di... Come dice lei, dare sì, sì, ci vuole, mi ascolti vice sindaco, ci vuole, perché l'italiano in questo capisce solo se viene toccato nel portafogli. È come la questione che dobbiamo mettere, è severamente vietato fumare, diceva Enzo Biagi, perché è vietato non basta, quindi bisogna vietarlo severamente, vietare basta per l'italiano, non capite. Chi è Pretty Woman? Ok. Ma siete dei farabutti. Pretty Woman perché era una prostituta. Ci arrivo anch'io, vedi. Peter Pescabè, grazie, regia, insieme a Lorenzo Nespoli in redazione con Alessandro Longoni ed Elisabetta Fusconi. Noi domani qui alle 6.30 siamo puntuali con 24 mattino e vi aspettiamo, a domani. She's walking back to me. She's walking